avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Il cappottino scalzo. Per realizzare questo format occorre lasciarsi crescere una barba incolta, capelli ugualmente lunghi e disordinati. I piedi devono essere particolarmente lividi, inzaccherati di fango. Per quanto riguarda l'abbigliamento, occorre unicamente un cappotto lacero e abbondante, ma non troppo lungo, per accentuare il contrasto della fuoriuscita delle gambe nude. Il cappottino scalzo lavora ai semafori. La sua apoteosi è i giorni di pioggia e maltempo. Si aggira in stato confusionale tra le automobili in attesa del verde, stringendosi addosso quel cappotto sotto il quale fa intuire di essere quasi nudo. L'effetto dei piedi nudi nelle pozzanghere e dei lunghi capelli bagnati sul viso barbuto ricostruisce perfettamente l'icona del Lecce Homo. Noi parliamo del cappottino e di altri format di mendicanti nelle nostre città qualche tempo fa, raccontando di come con artifici, con anche grande fantasia, con anche enorme creatività, molte organizzazioni avessero stabilito dei format uguali per tutti per rappresentare le stigmate della miseria, della desolazione, della povertà, dell'emarginazione, e con questi costellassero i punti più lussuriosi delle nostre città, come l'incrocio dei semafori, come le grandi strade del centro cittadino, come i luoghi antistanti ai grandi centri di consumo, negozi, grandi magazzini di infinite lussure, per dare dei segni palesi, rappresentazione palese della povertà, dell'emarginazione, della miseria. In particolare, tra questi format, il cappottino era quello che meglio rappresentava il tema di questa mattina. È un personaggio che tuttora se ne vedono, visti anche questa mattina dalle parti di casa mia. Oggi è una giornata piovosa, quindi i cappottini riemergono con maggiore virulenza rispetto ad altri format, come il suonatore di fisarmonica, come l'accasciato sul marciapiede, come la vecchietta contorta tremolante incappucciata e via dicendo. Il cappottino questa mattina rappresenta ciò che è l'essenziale. Una persona che apparentemente è nuda, a piedi addirittura scalzi, in una mattina come questa si mette dei sacchetti di nylon, ancora per poco, che poi saranno soltanto sacchetti di carta, dei sacchetti di nylon nei piedi, si imbacucca i piedi come una sorta di incappucciamento per far vedere che in qualche maniera non ha altro da mettersi. E sta lì, macilento, all'incrocio del semaforo, con uno sguardo quasi istigatori di sensi di colpa nei confronti delle persone che stanno dentro le loro automobili con delle grandissime ruote altissime, perché sono sempre dei SUV, con le autoradio accese che ascoltano Melog, impellicciati, coperti di giacche tecniche, con i guanti, con tutte le cuffiette, con l'iPhone, con l'iPad, con tutti i possibili aggeggi elettronici, con gli occhiali da sole ipertecnici, con lo scaldamani, lo scaldabraccia, lo scaldapalle, con tutti gli accessori che sembrano importantissimi per vivere. Accanto a loro le loro signore, anche loro iperaccessoriate, con fili che escono da tutte le parti, con protesi per parlare, per ascoltare. Dietro i bambini ancora più accessoriati, ricoperti ancora di tutte le panoplie possibili trovate sotto l'albero di Natale, quindi con aggeggi elettronici in mano, con giocattolini portatili, con cartelle ipertecniche per andare a scuola o perlomeno per portare dentro i loro infiniti gadget. E il cappottino invece, nella sua essenzialità, nella sua assoluta mancanza di un accessorio, dimostra che in realtà, al di là di tutto quello che c'è dietro di organizzazione o di senso reale di emarginazione, che non voglio qui sdrammatizzare ironizzandoci sopra, però ci rappresenta che in realtà l'essenziale per sopravvivere è semplicemente averci uno straccio addosso che ci ripari dal freddo, come il povero della leggenda di San Martino, avvolto con il suo mantello dentro la città sovrabbondante di accessori, di stratificazioni di oggetti, ci dimostra che per vivere basta veramente poco. Non potrei vivere senza lo spazzolino da denti, il cellulare, gli occhiali da vista, la borsa, un armadio con 10 vestiti, il computer e la connessione internet, lo scatolone dei ricordi, il phone, un paio di scarpe, la carta di credito, il lettore MP3 con le mie canzoni preferite, il deodorante, il caffè, la macchina fotografica, il portafogli, il bidet, una valigia, forchetta e coltello, il condizionatore d'estate, l'ombrello. Ecco, questo è un elenco di oggetti tratti da vari blog su internet che, bene o male, il cittadino medio di una media città, di un paese mediamente civilizzato come il nostro, non può fare a meno. Sono un sacco di cose, in realtà indispensabili. Provate a togliere a me l'aria condizionata a casa a luglio, agosto a Roma. Non potrei vivere senza. Trovo che sia indispensabile. Se soltanto c'è un calo di tensione, va via l'aria condizionata, mi sento perduto. Ma soltanto 10 anni fa non esisteva l'idea di un'aria condizionata fissa in tutti gli appartamenti. Eppure viviamo lo stesso. Ma ci sono un'infinità di cose che noi abbiamo, che fanno parte, diciamo, del progresso, della nostra capacità e possibilità di investire il denaro che guadagniamo, di riempire il nostro tempo per andarlo a acquistare, di appagare il nostro desiderio di felicità semplicemente possedendola, avendola, guardare le vetrine, vedere gli ultimi gadget, gli ultimi oggetti, accessori di vestiario, qualcosa che ci sembra indispensabile da avere, che ci riempie le tasche. Io non riesco più a uscire da casa se non ho uno zainetto, ma prima uscivo senza nulla addosso. Come mai? Perché nello zainetto devo metterci tutte cose di cui non posso fare a meno. Posso uscire senza macchina fotografica digitale? No, perché mi capita di vedere delle cose per strada che devo immortalare assolutamente. Posso uscire senza il mio iPad? No, non posso, perché se devo collegarmi come faccio? Posso uscire senza i miei occhiali da sole, senza la custodia degli occhiali da vista, senza tutti i necessari accessori e pulirli? No, non posso, altrimenti non vedrei. Posso uscire senza una piccola trousse dove tengo le cose indispensabili per lavarmi le mani, per rimettermi a posto, e sto fuori tutta una giornata? No, non posso. Posso andare a un appuntamento alle 6 di pomeriggio se non sono tornato a casa, se non sono minimamente riassettato? E sono un maschio mediamente non particolarmente vanitoso, e queste sono le cose indispensabili. Poi ci mettete la penna, poi ci mettete i block notice, poi ci mettete le chiavi di casa, poi ci mettete la chiavetta con le memorie di scorta, poi ci mettete tutta una serie di altri accessori. Io devo girare come una tartaruga, sempre uno zaino addosso. 800 24 00 24, fate l'elenco delle cose di cui non potete fare a meno, e anche l'elenco delle cose di cui potreste liberarvi tranquillamente, a cuor leggero, senza sentire una ferita incolmabile e insanabile nella vostra coscienza. Di quali oggetti potete fare a meno? Dell'automobile, dell'orologio, del tapis roulant e dell'attrezzatura per fare gli addominali in casa mai utilizzati, della stampante, della stanza d'ingresso nelle case, della penna stilografica e della carta da lettere regalate per la laurea, della grattugia, dello spremi agrumi e del pelapatate elettrici, del cappello, della tessera fedeltà del supermercato e del benzinaio, dei souvenir, delle sigarette, ma anche dei sigari e della pipa, dei vestiti alla moda, dei quadri incorniciati appesi alle pareti, dei volumi delle pagine bianche e gialle, di riviste e libri, dell'impianto hi-fi e della collezione di CD, di ammennicoli, pupazzi, sculturine, portafortuna e tutti gli oggetti d'arredamento inutili. Tutto questo si concretizza poi in un grande movimento d'opinione, soprattutto negli Stati Uniti. Ogni tanto nascono delle nuove idee, delle nuove tendenze. Il caposcuola di questa idea che si possa fare a meno di tante cose, della necessità di fare delle liste delle primarie necessità, degli oggetti da avere, da possedere, si chiama Dave Bruno, di San Diego in California. Repubblica ha dedicato una pagina intera un paio di giorni fa alla sua Bibbia delle 100 cose indispensabili. Diciamo che la Bibbia di questo movimento, che poi ha vari blog, profili Facebook, e nella rete trova il suo humus ideale per svilupparsi, prevede una rigida classificazione degli oggetti indispensabili, dando delle piccole elasticità, ci sono delle libertà. Ad esempio, gli attrezzi di uso comune, quelli per il bricolage, quelli di cui non potrei nemmeno io fare meno, valgono per un oggetto. Quindi un oggetto è la cassetta degli attrezzi, cacciaviti, sigillanti, seghetti, trapani, chiodi, quello vale per un oggetto. La stessa cosa agli oggetti personali, non è che puoi avere un paio di mutande o un calzino. La biancheria diventa un altro oggetto. Ma tolti questi oggetti raggruppabili, quanti sono gli oggetti di cui si può fare a meno? Quali sono quelli veramente indispensabili? Fate un esempio, provate un attimo ad aiutarmi chiamando all'800240024. Io sto elencando oggetti che sono stati inutili o sono inutili, con cui sono uscito questa mattina. La sciarpina lunga è aggirata intorno al collo. A cosa mi serve la sciarpa? Quando ho un bellissimo piumino che si chiude al collo, eppure la sciarpina me la sono portata. Cosa mi serve, ad esempio, non so, avere, me l'ha fatto notare in tonti, il flaconcino della mucchina dentro lo zaino. Quali saranno le possibilità, le necessità di crearmi un ambiente asettico sulle mani? Non giro in posti dove ci sono pestilenze, ci sono malattie infettive particolarmente feroci, ma dopo essere uscito dalla metropolitana, se voglio sentirmi fresco, mi piace, come tanti altri maniaci, spalmarmi il gel disinfettante sulle mani per sentirmi meno contaminato comunque dalle infezioni della promiscuità. Beh, anche questa è una cosa di cui si può sicuramente fare a meno. Cominciate a fare i vostri elenchi, vediamo se Adriano ci può cominciare ad aiutare. Adriano, buongiorno. Ecco, comincia a chiudere la radio, abbassare la radio magari. Sì, l'ho abbassata. Sono in macchina, sono rappresentante, sentivo la trasmissione e innanzitutto complimenti, interessante. Allora, cominciamo a vedere, lei da cosa si vede circondato che potrebbe buttare dal finestrino? Immagini che lei stia in una sorta di dirigibile e necessariamente deve guadagnare quota, quindi deve buttare della zavorra. Lei, per non precipitare, cosa butterebbe dal finestrino della sua macchina? Ma tutto praticamente. Beh, cominciamo la merce che vendo. Beh, quella. Ma comunque facciamo. Non è indispensabile in questo momento, di fronte al fatto di schiantarsi con il dirigibile, cosa butterebbe? Comincia a elencare gli oggetti che vede, così capisco. Ma guardi, butterei intanto, le dico subito, il navigatore, così perlomeno andrei. Via il tom-tom, sì. Via fuori uno. Via il tom-tom, poi via con... i cappelli di lana, così magari si va verso l'estate. Sì, il cappello di lana, in effetti, se ne può anche fare a meno. Poi. Ma via la valigetta con tutti i documenti, si riparte da zero. Bellissimo, perfetto. Avrà già buttato via, guardi, 5 kg di roba più o meno. Guardi, la crema per le mani che è proprio inutile. Vede, anche il cremine per le mani, siamo circondati, sì, da cremine. La mattina creme per le mani, poi la cremina quella lì per gel igienizzante. Ma via, ci stiamo infinocchiando, diciamo la verità. La verità, sì, è questa, dai. Buttiamo via tutto, così diventiamo uomini, esatto, rudi. Poi. Sì. Tutto questo. La mania delle penne, ci sono 8 penne nella macchina. Già, anch'io sono circondato da penne. Ogni mattina esco con le tasche piene di penne, torno a casa vuoto e mi riempo di penne. Esisterà, esatto, un deposito di penne, una sorta di sovraccarico di penne superflue nel mondo, che alla fine saremo soffocati dalle penne. Via le penne. Esatto. Poi. Peggio degli indiani. Ma invece una cosa importante della quale non mi libererei, ho chiamato per questo, sono i santini, un rosario che mi è capitato in mano per sbaglio, però invece mi aiuta tanto. Magari usi quello lì che usano i Boy Scout, che è un anellino piccolo che occupa anche, esatto, meno spazio. Quello lì, bravo, quello lì, esatto. Quello, sì, si lega al collo con un legaccio, comunque è già qualcosa. Poi? Infatti l'ho trovato alla stazione che l'ha perso un Boy Scout, appunto. Beh, no, i Boy Scout si liberano anche loro delle zavorre, chiaro. E poi niente, dai, in realtà poi la macchina è abbastanza in ordine, via. Vabbè, ci siamo liberati una decina di chili di roba. Grazie Adriano. Sì. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Comincia a buttare via. Butto via niente, perché mi porto dietro niente. Ah, lei già fa parte, diciamo, sì, dell'essenza. Sì, sono già leggero, sì, a parte gli occhiali da vista. Poiché, beh, quelli, senza, vabbè, quelli. Sono un obbligo, quindi relativa custodia e straccetto per pulirli. Beh, lo straccetto comincia a buttarlo via, lo può pulire con il lembo delle mutande, con qualunque altro. È vero, posso via usare lo straccetto. Camicia. Vabbè. La camicia. E ho il fazzoletto, sai, il classico fazzoletto di cotone. Inutile. Lei può soffiarsi il naso. È vero che è inutile, lo uso per far tutto, praticamente. No, guardi, per soffiarsi il naso basta chiudersi una narice con un dito, si soffia con l'altra. Via il fazzoletto, poi? Poi non ho nient'altro. Non ho l'iPod, ho un cellulare che non manda MMS, non manda niente, lo uso per telefonare. Quello è il cellulare fa parte degli oggetti indispensabili, secondo lei? Se lo si usa per telefonare, beh, l'indispensabilità è un discorso molto soggettivo, per me no. No, cioè, cominciamo a ridurre il superfluo, non indispensabile, però vediamo le cose, okay, di cui possiamo fare a meno. Posso fare a meno delle, quella cosa lì che si usa per pulire le mani, quel gel. Ah, ecco, quello ci abbiamo tutti, ci siamo accorti, ci abbiamo una cosa. Quello è veramente inutile, ovunque mi giro c'è un bagno per lavarmi le mani. E certo. Okay. Anche ai giardini pubblici di Milano ci sono le fontanelle, quindi se ci va un barbone ci posso andare anch'io. Però ce l'abbiamo tutti l'acqua in testa. L'acqua è acqua, no, io non ce l'ho. L'acqua poi. È acqua per tutti. Io mi sono accorto che stamattina, uscendo di casa, che io bevo soltanto acqua minerale da almeno 15 anni. C'ho una bottiglia di plastica con l'acqua, dico, ma c'è anche nel rubinetto, perché ma bevo questo? Ma può bere l'acqua del rubinetto, appunto? Non la bevo mai, non lo so, bevo solo acqua minerale. Perché non la beve? Dicono tutti che è potabile, poi nessuno la beve. È così, perché mi piace avere cose non indispensabili. È trendy. No, non è trendy, è un'abitudine. C'abbiamo sempre una bottiglia, ecco, altro accessorio, abbiamo sempre una bottiglietta d'acqua dietro. Io vedo sempre signori, e anch'io, mi hanno detto che fa bene. Giriamo con questa bottiglietta come se fossimo nel deserto. Che ci rovina? Non si sa mai. Beh, sa mai, mica improvvisamente avviene. No, è vero. Lei quando va in vacanza, che fa la valigia, cosa dice? Non si sa mai, mi porto un paio di pantaloni in più perché non si sa mai. No, io guardi, anche per viaggiare un giorno, purtroppo. Vado alle Maldive e mi porto l'ombrello. Ho uno standard da cui non posso calare. Vado via un giorno, ti porti un altro paio di pantaloni, non si sa mai. Dico, vabbè, portiamo un altro paio di pantaloni. Altre tre camicie, non si sa mai. Il golfino se freddo, non si sa mai. Non si sa mai. Poi uno torna che tiene. Poi viene a casa e hai ancora tutto pulito. Sì, ha le stesse mutande di una settimana prima, che non ha avuto tempo di cambiarsi, certo. Andiamo avanti. Rosanna, finalmente una signora. Salve. Butti via un po' di roba, vediamo un po'. Allora, guardi, io ho l'abitudine, prima di fare un viaggio, di preparare la valigia e poi la sera precedente o la mattina togliere quasi tutto, lasciare poi l'essenziale, perché anch'io dico questo mi serve, quest'altro, proprio alla fine riesco a togliere tante cose. Sì, ma Rosanna... In questo esatto istante, voglio sapere, delle cose che la circondano, che è in tasca, che è addosso, nella borsetta, infinite. Cosa vorrebbe buttar via? Tutto. No, comincia a elencare, elenco. Diciamo, dunque, le gomme masticanti no, non ne posso far meno. Le gomme masticanti, quelle che la masticano? No, sinceramente. Diciamo... Ma perché ha paura di avere l'alito cattivo, di sempre mangiarle per... Avere no, la bocca fresca e profumata. È una cosa forse anche di nervosismo, non le saprei dire. Ha bisogno di ciancicare. Mi snervano, sì. La potrebbe prendere, anche, non so... Anche per non mangiare dolci, caramelle... Delle foglie di una pianta particolare che raccoglie in un cespuglio, come fanno... Questo è vero. Un pezzo di legno. Della menta, magari, oppure bastoncino di liquirizia. Sì, infatti. O anche dei sassi, non lo so. Poi. Comunque guardi, i guanti e qui non ce n'è bisogno, oggi non ce n'è bisogno. Nella borsetta, cosa c'ha di inutile nella borsetta? L'ombrellino, le chiavi di riserva della casa, dunque due agende, una dell'anno scorso, la nuova. Sì. Ci sono infinite cose, guardi. Ma vado avanti ancora. Tre penne, quindi se ne potrebbe avere una. Dunque, che cosa? La calcolatrice piccola, anche se poi è compresa nel cellulare. E quindi è inutile comprarne una. Quindi inutile, insomma, sono infinite le cose. Però guardi, io le volevo dire questo: la cosa più importante è avere uno spirito francescano. Se si potesse arrivare a questa cosa. Sì, ma sono chiacchiere. No, non sono chiacchiere. Guardi, sono umbro. Diciamo, io con un trasloco l'ho fatto. E ho gettato via tante cose, diciamo prima le ho date, comunque le ho tolte e mi sono liberata già di tanta zavorra, di cose inutili che... No, le case traboccano di cose inutili, questo è vero. Guardi, lei sta parlando con una persona che è umbro, quindi io da quando sono bambino ho questo tormentone di San Francesco che va in piazza, il figlio del mercante, si leva i vestiti, cammina scalzo, povero, ci hanno educato l'idea dello spirito francescano. Io cerco di buttare via cose, io sotto le vacanze di Natale ho buttato via tre sacchi di roba a casa mia. A casa invece sembra una sorta di pozzo senza fondo, più uno butta via più esce fuori roba che sembra indispensabile. Comunque grazie. Stefano, cioè, pronto? Sì. Butti via velocemente le sue cose. Io ho una canna da pesca in macchina da 4 anni. Forse l'unica cosa potrebbe servire in caso di catastrofe, almeno lei pesca e mangia. Esatto. No, io tra l'altro praticamente non so pescare. Ma perché porta la canna da pesca dietro? Ma perché ho sempre voglia di andare a pescare, di cercare di imparare a pescare finalmente, solo che chiaramente vivendo a Milano non è che ho molte occasioni di farlo. Beh, navigli può andare, abusivamente. No, non esattamente, e purtroppo niente, poi mi dimentico sempre, ma ho tutta l'attrezzatura, non ho solo la canna da pesca, tutta l'attrezzatura per fare gli ami, per legarli. La licenza di pesca l'ha presa? No, veramente no. Quindi non può andare a pescare senza licenza. Vado al mare, infatti, a pescare. Le poche volte in cui sono andato a pescare, sono andato a mare. Quindi lei c'ha questo bauletto con tutto il necessaire per il perfetto pescatore. Con tutto il necessaire dentro nel altre cose inutili? Della... Altre cose inutili? Lo apro. Altre cose? Ma ne potrei elencare un'infinità. Ma dica qualcuna, quelle che vede, quello che è attorno, quello sì. Che è in tasca. Cosa è in tasca che può buttare via senza avere una ferita incolmabile? Portatile, ho dentifricio, una penna, un pacchetto di chic, un portafoglio strapieno di carte, di scontrini che non so mai a che cosa possano servire, però li tengo. Basta, praticamente una penna, niente di che. Le penne mi sembra che sia una costante comunque, degli oggetti da cui non ci possiamo liberare. Abbiamo Graziano. Sì, buongiorno. Io faccio il falegname, quindi ho una miriade di attrezzi che non uso, cioè li ho presi non so perché. Però sono comunque oggetti di lavoro, sono oggetti di lavoro comunque. Sì, però ho 8 martelli. Un falegname posso servire di 8. Poi ho le cose che però mi danno più fastidio sono, per esempio, io ho uno stereo di fronte a me che non uso mai. L'ho comprato, l'ho usato un paio di volte e non lo uso mai. Tutte le cose inutili, tipo il telecomando della TV. Cioè, che io non sinceramente scusi, la uso anche. Allora, o butta via il televisore intero. Se tiene il televisore, perché vuoi rinunciare al telecomando, che è la cosa più utile? Ma non credo, ma perché? Cioè, che fatica si fa alzarsi e cambiare canale come si faceva? Ma come? Ma non dica, non dica banalità. Sì. Alzarsi al divano, muoversi. Oggi poi farebbe anche bene. L'ergonomia del televisore è fatta sì che è difficilissimo cambiare canale senza telecomando. Ah, questo sì. Bisogna andare a trovare un pulsantino seminascosto, fare delle funzioni. Questo è vero. Se uno lo tiene complesso, non lo butta via, dice non faccio meno il telefono. Purtroppo quello che si dovrebbe buttare sono molte teste inutili. Questo è una cosa che noi non possiamo fare. Ecco, tutto lì. Non ho preso, scusi, l'ultima frase, cos'è che non può buttare? No, non si possono buttare certe teste inutili. Vabbè, adesso stiamo parlando di oggetti. Anche la testa è un oggetto. No, è una parte anatomica di un essere umano, ovviamente. Non è un oggetto. No, ripeto, ci sono tantissime cose che purtroppo noi siamo costretti dalla pubblicità, dal modo di vivere, da tante cose ad acquistare. Ce le troviamo in mano. Costretti, e nessuno ci mette il coltello alla gola, dice o l'acquisti o ti scanno. Ci piace farlo perché ci fa parte delle soddisfazioni quotidiane della nostra civilizzazione. Ma forse su questo può dirci qualcosa di più un ospite che ho mantenuto silenzioso in questo momento, che volevo che avesse un assaggio, perché fa parte anche del suo lavoro, osservare, vedere, capire delle nostre tribù metropolitane rispetto agli oggetti inutili. Abbiamo al telefono Alberto Salza. Alberto Salza, buongiorno. Buongiorno a voi. È un antropologo che spesso ha partecipato alle nostre trasmissioni, molto specializzato comunque sul continente africano, ha scritto un libro fondamentale, Niente, come si vive quando manca tutto, Antropologia della povertà estrema, Sperling e Kupfer 2009, poi ha scritto anche tanti libri. Allora, Alberto Salza, cosa ne dici di questi primi elenchi di occidentali civilizzati che si accorgono che hanno tanti oggetti di cui possono benissimo fare a meno, ma di cui non faranno mai a meno? Ah, sono molto interessanti perché evidenziano un fatto importantissimo, la mancanza di un fattore limitante. Altrove le cose devono essere trasportabili, devono servire assolutamente e devono essere ottenibili facilmente dall'ambiente. Queste tre variabili non ci sono più nel nostro mondo, non abbiamo più nessun limite all'acquisto, alla trasportabilità e alla reperibilità. E questo costruisce queste Wunderkammer che sono le nostre tasche, le nostre macchine, le nostre stanze. Noi abbiamo tanti oggetti piccoli che ci fregano facendoci vedere che è piccolo, è leggero e trasportabile, però tanti assieme fanno sì che abbiamo una sorta di sacco di oggettini da portare dietro. Certamente, io sono vissuto con i Bushimani per un anno di continuo e lì il fattore limitante era il peso, cioè tu dovevi avere al massimo 10 kg e tutti possono avere solo 10 kg perché bisogna spostarsi continuamente. A questo punto è ovvio che la scelta è del tutto funzionale, ma non necessariamente. Difatti ho trovato molto interessante il discorso del rosario. Io mi sono accorto, anche quando ho dovuto fare a meno di tutto quello che potevo e potevo soltanto portare pochissimo, che è un elemento spirituale, diciamo, di sostegno interno e non soltanto funzionale, era indispensabile, una sorta infatti di placebo spirituale. È un oggetto di culto fantastico, Rosario, se uno ci pensa. È una possibilità piccola, portatile, poi veramente quelli dei Boy Scout sono un cerchiettino con 10 tacchette, quindi occupa il minimo spazio, che però permette di aprire degli universi di frequentazione interiore. Alberto Salsa, ci fermiamo soltanto un istante per dare le informazioni della borsa e poi riprendiamo con te il discorso e l'analisi dell'indispensabilità che viene delimitata dal fattore peso. Noi non ci rendiamo conto che il fatto che possiamo portarci dietro un numero illimitato di oggetti fa sì che noi consideriamo indispensabili proprio tutti questi oggetti. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait. No, sto facendo un elenchino rispetto alle cose indispensabili. Parlava prima l'ascoltatore, vorrei eliminare il telecomando. Ho fatto adesso perché me l'ha suggerito Paolo Corleoni, che oggi sta in regia, l'elenco dei telecomandi che ho davanti a me quando mi siedo sul divano davanti al televisore. Giuro sui miei figli, è tutto vero. Allora, il telecomando del condizionatore, siccome è anche pompa di calore, lo tengo. Se uno sente freddo o sente caldo, accende quello. La TV, naturalmente, è un telecomando complesso. Il decoder, l'home theater, il DVD recorder, poi c'è un altro lettore di DVD, c'è il VHS, non si butta via, c'è una cassetta, serve un altro telecomando. La lampada profumatore Eolo è una lampada che fa la luce colorata di tutti i colori e manda fumo profumato, e non ne posso fare a meno. Poi la PlayStation 2 e la PlayStation 3, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho 10 telecomandi davanti e non riuscirei a fare a meno di nessuno di questi. Stiamo parlando questa mattina degli oggetti indispensabili, gli oggetti superflui. Lo facciamo con l'aiuto di un amico eminente antropologo, Alberto Salsa, che ha scritto vari libri proprio sull'essenzialità. Lui frequenta, studia, analizza il continente africano e ci ha appena detto che il fatto che alcune etnie come appunto i boscimani debbano continuamente spostarsi, quindi l'essere nomadi facilita la concretizzazione, la divisione fra superfluo e necessario, possono portarsi dietro soltanto 10 kg. Se noi fossimo nomadi dovremmo portarci dietro un carretto una volta, minimo un risciò con gli oggetti ci portiamo dietro. Alberto Salsa, io leggo su Wikipedia, sulla tua scheda, un interessante apologo tratto dal tuo libro appunto da niente, di una signora che arricciava il naso quando guardava la scarsa igiene, nella sua accezione di occidentale, dei Samburu, che erano delle persone che vivevano con le vacche dentro casa. Dicevo che schifo, poi era tutta contenta quando dopo gli hanno messo dei teli di nylon sulle capanne e non c'erano più le mosche. Tu gli hai detto, sì, ma se non ci sono più le mosche significa che per loro non c'è più la vita. Ecco, spiegami meglio questa sorta di parabola che ci fa capire quanto altri oggetti che si accrescono e si sovrappongono a ciò che abbiamo di indispensabile in realtà turbano il nostro equilibrio vitale. Sì, le case sono fatte di sterco, quindi lo sterco è reperibile dall'animale che dà anche latte, carne, sangue, in sostanza è un ciclo chiuso. Intervenendo con un telone di plastica che si può lavare e pulire, a parte che l'acqua non c'è da quelle parti, ma comunque al massimo piove qualche volta, quindi si riesce in qualche modo a tenere una sorta di igiene, in realtà si interrompe questo ciclo vitale, e se non c'è sterco significa che non ci sono mucche, se non ci sono mucche non c'è latte, se non c'è latte non c'è vita. Allora, il problema della compatibilità del nostro avere con il nostro essere diventa fondamentale. Noi stiamo perdendo questa relazione, no? 10 telecomandi per fare un'operazione unica che è schiacciare un bottone, però sono 10 bottoni, però in realtà... Sì, ma ogni telecomando ha 50 bottoni, immagina. Oltretutto, quindi io tra l'altro ne ho uno, per fortuna mia, obbligatorio, perché come giustamente si dice, certi oggetti sono costruiti per avere delle protesi esterne, ma questo deriva dalla nostra evoluzione. Noi stessi siamo totalmente imperfetti e non specializzati e dobbiamo avere protesi come un coltello, come avete mai provato ad aprire un antilope coi denti? Io ci ho provato ed è impossibile, quindi dobbiamo per forza avere una serie di piccole attrezzature, ma queste attrezzature sono collegate molto più direttamente di quanto non facciamo oggi con la mente. Cioè è la sapienza, la capacità di affrontare il problema che risolve le cose. Senti, su questa smania dell'igienizzante personale, fra gli oggetti superflui ci siamo accorti tutti di avere addosso, lo ammetto, ce l'ho anch'io nel mio zainetto, totalmente inutile, la boccettina con l'igienizzante, con il gel che tutti si usa, ci si porta dietro, non so, forse risale ai tempi in cui si diceva ci fosse una sorta di influenza letale, 2 o 3 anni fa, che poi la cosiddetta suina, che non ha poi fatto tutte le vittime, si immaginava. Come vedi l'uomo occidentale civilizzato che gira con l'igienizzante in tasca? Io ho visto due grandi passaggi epocali. I ragazzi che bevevano all'università tiravano fuori la bottiglia d'acqua e la bevevano, e adesso questo fregarsi di mani con i gel. Io vivo in staccato, cioè 6 mesi da una parte, quando torno qua c'è qualcosa di nuovo e di straordinario. Ritengo che sia di nuovo l'incapacità di affrontare le variazioni ambientali. Cioè, in altrove la catastrofe non è soltanto un'occasione, è una risorsa. Da noi invece viene vissuta comunque malissimo, e di conseguenza cerchiamo di prevenire qualunque cosa. Il fatto stesso che nella spiegami società, meglio, come mai la catastrofe, come può diventare una risorsa, una catastrofe? Diventa una risorsa in questo senso che costruisce un modello di pensiero molto complesso, pronto all'intervento immediato. Un pastorello samburu, quelli che vivono con le case di sterco, seduto sotto un albero, deve decidere così rapidamente e in funzione di tanti parametri che ha davanti a sé a ogni mossa 2 milioni di opzioni, è una matrice calcolata. Da noi cerchiamo di ridurre queste opzioni al massimo, abbiamo paura della complessità che ci offre la catastrofe e vogliamo la semplicità, ma in realtà è una semplificazione, non è una semplicità. No, questo è interessante, questo algoritmo che stabilisce quante possibilità abbiamo di scelta. 2 milioni di scelte rispetto a ogni azione, che è un'azione che potrebbe o salvargli la vita o determinare la sua scomparsa. Fra l'altro, deve scegliere in funzione della stagionalità, del fatto dove sono i predoni, dove c'è l'erba, più o meno, diciamogli tre possibilità, zero, più o meno, a seconda, no? Un valore qualunque, e alla fin fine viene fuori questa matrice impressionante, che è simile, se volete, a uno che sta attraversando la strada con l'automobile e che deve tener conto di una quantità enorme di parametri, ma da noi non è interiorizzata, lì invece viene premiata, ecco dove la catastrofe diventa una risorsa. Il ragazzino che poi porta le mucche nel posto giusto diventa un grande eroe e se ne tiene conto di questo fatto, e lui soprattutto ha salvato se stesso e la famiglia. Noi abbiamo un po' perso la capacità di essere eroi, in sostanza, e quindi ci laviamo le mani in continuazione come la moglie di Macbeth. Abbiamo qualcosa da spurgare, evidentemente. Sentiamo Luca. Luca, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire per dirvi che ho trovato un metodo particolarmente efficace, anche se un po' cruento, per sbarazzarsi di tutte le cose inutili. Terremoto. Lei è terremotato abruzzese? No, la prego di non chiamarmi terremotato. No, io sono terremotato, io non ho nessuna difficoltà. Infatti quando ho sentito che lei era umbro, immagino che No, sono terremotato anche abruzzese, guardi, sono biterremotato. Avevo una casa in Abruzzo che adesso, sono dal tempo del terremoto, non posso più metterci piede, quindi... Perfetto, vabbè, però... Divido con lei la e poi è della classe più estrema, adesso non so, F, non so come si chiami bene. Quindi sono terremotato di classe F, quindi... che classe F non è proprio pessima. No, la mia è quella peggiore. Per inciso, però. No, adesso non mi ricordo bene, forse, non so bene. Di quelle che bisogna aspettare, ecco. Comunque è un ottimo sistema per sbarazzarsi di tutte le cose inutili. Beh, in effetti anch'io, nella mia seconda casa in montagna, pensavo ci fosse, era il deposito delle cose che buttò via dalla mia casa. Da 2 anni non la frequento, è completamente sigillata e chiusa. Di tutte queste cose ne faccio a meno benissimo. Sono 2 anni che ho un tir di oggetti che non nemmeno vedo più, e quindi sto bene. Sì, esatto. Io dicevo sempre a mia moglie che in ogni casa c'è il reparto di roba inutile. Che col terremoto, devo dire la verità, gli abbiamo dato una bella sfoltita. Lei ha sfoltito, cosa l'ha sfoltito il terremoto? No, mi perdoni, non l'ho sentita. Cosa le ha sfoltito il terremoto? Lei avrà avuto la prima casa essendo abruzzese? Casa, studio mio, lo studio di mia moglie, praticamente siamo ospiti dei miei suoceri, quindi diciamo che mi è rimasto ben poco. Quindi lei adesso vive come appunto il... Samburo. Come appunto i signori che studia il nostro antropologo. Possono avere 10 kg di roba a portarsi lì? Sì, penso poco di più, ma... Sì, diciamo. Al di là della tragedia, che è una tragedia, un terremoto, una perdita, questo la fa sentire in parte più leggero. Non voglio che dare elementi consolatori, però Io devo dire, guardi, lo dico, ma prendendomi tutte le responsabilità. Mi dispiace tanto, ci ho lasciato il cuore, sono ferito, sono arrabbiatissimo perché ancora non riesco a fare i lavori di ristrutturazione e via dicendo. Ma il fatto che mi sono liberato comunque di una tonnellata di oggetti che non vorrò mai più rivedere, comunque sia, quando rientrerò in possesso di casa mia, quelle cose le butterò via. Butterò via tutti i vestiti usati, tutte le vecchie cassette delle trasmissioni, tutti i libri che avevo ammassato lì, tutti i giocattoli vecchi dei ragazzini, tutti i miei televisori, i telecomandi, i vecchi computer, li raderò al suolo, li metterò in una discarica, li incenerirò, non li vorrò più vedere. Io questa cosa l'ho già fatta e le dico che ho tirato fuori da casa 7 scatoloni di roba che a quel punto avevo deciso che era arrivato il momento di sbarazzarsene, però mi creda, con un po' di rammario. Lo so, ci si lascia un po'. Alberto Salza, è paragonabile questo effetto, che non voglio, ripeto, non voglio né sdrammatizzare né dare facili consolazioni, che però in catastrofi percepibili anche le nostre altitudini come un terremoto ci si accorge di quanta roba inutile si aveva per casa. Ma non solo, cioè il signore mi sembra che abbia tirato fuori veramente il meglio di sé in questa situazione, nel senso che non ha nessuna voglia di essere consolato, dice beh è andata così e adesso ci ne veniamo fuori con più leggeri. Io consiglio a tutti di perdere i bagagli in aereo una volta o l'altra, ci si accorge immediatamente che in un mercatino locale si comprano 3 cose e si sopravvive benissimo. Quello che però manca poi è una sorta di centro spirituale in questo senso, nelle catastrofi, ecco perché in fondo le casette ricostruite dell'Aquila servono a poco, ma ci vuole il centro storico, la gente quello vuole, riunirsi intorno a un simbolo, l'ho visto capitare nelle guerre, vogliono poche cose, ma altamente simboliche. Mia madre disse una cosa, che una persona poco istruita, che lavorava, disse: Alberto, rinuncia a tutto, ma non rinunciare alla bellezza. Vorrei spostare il discorso dalla quantità alla qualità. Noi abbiamo un problema di quantità, dobbiamo imparare a gestirlo in funzione della qualità. Poche cose ma belle, come diceva mia nonna, comprati un paio di scarpe, bello, ti dura tanto, è inutile averle tante, perché dalle scarpe si capisce, si vede, lo diceva anche Dottor Peppino quando facevano i soldi finti, si vede veramente chi è l'uomo, quindi puoi avere anche le pezze nel sedere, ma tu sia pulito con delle belle scarpe ben risolate, sarai sempre un signore. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ecco un decalogo per mettere in pratica i principi dello space clearing. Abituatevi a considerare il disfarsi del superfluo come un'esperienza gratificante. Quando ne avrete constatato i benefici, cercherete sempre più spesso queste gratificazioni. Liberarsi delle cose può darci lo stesso piacere che abbiamo avuto nel comprarle. Prendete un notes e una penna e fate un giro di casa elencando tutte le zone critiche. Quando fate la cernita delle cose da buttare o da tenere, non accumulate pile di oggetti con la scusa di decidere più tardi. Raccogliete un oggetto e prendete immediatamente una decisione. Rimane o se ne va? Se rimane, assegnategli un posto, altrimenti buttatelo senza rimpianti. Prima di buttare qualcosa, valutate quanto è importante per voi. Se un vecchio regalo suscita ancora gioia e affetto, è giusto conservarlo tra i ricordi. Se invece vi lega ad una persona che non vi è mai piaciuta, eliminatelo senza esitazioni. Altro luogo, secondo me, da deforestare senza rimpianti sono gli armadi. Quanti abiti teniamo che non mettiamo più? Esiste la vecchia regola: se tu dopo un cambio annuale non rimetti quella giacca, quel cappotto, quel pantalone, puoi buttarlo via, non lo metterai mai più. È pur vero. Ma buttereste voi via l'impermeabilino Burberry che andava tanto di moda 15 anni fa, bello, perfetto, ancora nuovo con la sua foderina? No, perché è un delitto buttarlo via. Buttereste via i giacconi, quelli che ancora rappresentano un marchio di distinzione, anche se ce li hanno tutti, perché costano un pacco di soldi, anche se sono modelli che appartengono a qualche anno lo fa difficile. Ecco, forse bisognerebbe avere coraggio di buttare via oggetti ormai frustri, ormai smessi, ormai non più degni di essere indossati, che non ci piacciono più, solo per il fatto che il marchio li conserva. Il marchio è una sorta di meccanismo di mummificazione dell'oggetto nei nostri armadi. Sentiamo cosa ne dice Maria. Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma io ho fatto proprio un'operazione del genere. Armadi vuotati, librerie vuotate, delle cazzatine, solo mi sono tenuta solo i libri dei quali non posso fare a meno. Per il resto vado in biblioteca. Io regalo i libri infami, guardi, è la maniera per liberare un po' di librerie, li regalo agli ascoltatori. E anch'io ho arricchito, ho 4 biblioteche scolastiche di casse di libri, perché io macino 8-10 libri al mese, che si può immaginare. Sì, i libri, devo dire, è una bella piaga, perché i libri sono belli, interessanti, utili, ma sono il primo oggetto che ci riempie le case. Noi abbiamo case per mantenere i libri. In un posto orribile, mi sono sentita criticare da una nuora, Dio buono, ma non si sa dove appoggiare qualcosa, aveva ragione. Poi ho volito le pellicce, ho regalato i miei gioielli a tutte le donne giovani della mia famiglia. Beh, i gioielli, scusi, è un valore, non è un oggetto. Sì, è un valore, ma siccome porto solo 2 oggetti che mi sono... Quindi aveva cariolate di gioielli da regalare? Ne avevo. Li ho destinati tutti alle donne giovani di casa mia. Ah, bene. E se li godano finché è ancora via, perché sennò sembra che le nipoti e le nuore non aspettano altro che schiatti per prenderti i gioielli. No, via consegno. Va bene. Poi pellicce. Guardi, le pellicce, è vero, le pellicce oggi è brutto andare in giro con la pelliccia, è inutile, fastidiosa. Io non sono necessariamente un ideologo dell'animalismo esasperato, penso che i visoni servono per fare le pellicce di visone, per chi se le vuole mettere. Però oggi sono delle giacche tecniche con 10 kg di peso in meno, fanno la stessa protezione termica. Il problema delle pellicce, uno le tiene negli armadi, dice vabbè, non la metto, non la butto, da un po' puzzano, è come avere delle carogne dentro casa. L'odore delle pellicce dopo 2 anni che non si mettono più è come avere un animale putrefatto dentro l'armadio. Lei le pellicce, esatto. Cosa ne fa di pellicce? Non regalate. Ha regalato anche le pellicce, c'è chi le prende, sì. Ma scusi, ma un povero poi che fa? Si mette la pelliccia e sotto va scalzo, chi le dà le pellicce? Ci sono delle signore della mia età, io ho 68 anni, che hanno delle idee diverse, amano la pelliccia, magari non se la sono potuta fare. Ah, le fa contente. Le vedo girare con la mia pelliccia, loro sono felici, io altrettanto. Ah, bene, questa è una bella idea. E poi ho la radio, perché io non mi muovo mai senza radio, un unico telefonino, non vecchio, ma insomma buonino, sì. Ma insomma niente di... Poi lei vedo dalla scheda servizi da tavola, cioè piatti, bicchieri. Ah, per carità, tutte le volte che muore una zia, protozia, nonna, sono arrivate carrate di servizi. Quello è vero. Ma fatto venire in mente, noi abbiamo a casa un armadio pieno di servizi di piatti, non abbiamo mai usato. Piatti e posate di vecchie zie orrende, con il bordino dorato, con il merletto, con le damine settecentesche di Limoges, che non servono a niente, ma cosa ci facciamo? Allora, non dico, lei non vuol sentire parlare di vita francescana, però io l'unica cosa che mi permette... Guarda, se mi ricordavo l'avrei rotti a Capodanno, li buttavo dalla finestra, mi sono ricordato adesso. No, non si fanno queste cose. No. Bisogna rendere onore agli oggetti. Vabbè, ma chiuso. Mi tolgono spazio vitale. Va bene. Grazie dei consigli. Ombretta, un'altra signora. Ombretta. Buongiorno. Senta, io volevo dire questo. Fermo restando che si può vivere di poco, come ha detto prima il signore... L'antropologo Alberto Salza. L'antropologo, beh, lui vive a contatto con popolazioni che vivono di nulla in Africa. Si può vivere così e si può vivere anche di tutti gli strafalicci che uno... c'ha in casa, come faccio io. Sì, lui aveva una casa perché... come il Vittoriale di D'Annunzio, che è piena di oggetti. Anche perché... io mi chiedo, gli antiquari che vivono sulla gente come me, perché c'è stata gente fin da sempre che non ha buttato tutto, qualcosa l'ha conservato. Allora, quando si conserva una cosa bella e di valore, ha, secondo qualcuno, un senso, e quando si conserva uno strafaniccio non ha senso. Per me ha senso tutto, perché ogni oggetto inutilissimo che io ho dentro casa... è un oggetto che in qualche modo mi richiama al mio passato. Io ho 68 anni, ho avuto una vita piuttosto movimentata. No, assolutamente il contrario. Ah. Però ho subito un lutto molto giovane. Sì. Tutte queste cose che io ho fanno parte del mio vissuto. Quindi questo avere nella mia casa... adesso sto camminando col telefono che tengo cordless, e vedo un ritratto che c'aveva nella, di un mio zio, che c'aveva nella sua casa la mia nonna, che è morta nel 1950 ad 83 anni, quindi ci, si può immaginare questo figlio quando ce l'aveva avuto. Io ritorno indietro con la mia nonna, quando sedevo all'ora del tramonto a dire il rosario insieme a lei. Io posso pure vivere di una Bibbia e di un rosario e una fotografia. No, ma ho capito perfettamente, Ombretta. Il suo punto di vista non solo accettabile, ma lecito. Lei, come ha detto Salza, la sua Camera delle Meraviglie. La Camera delle Meraviglie è il luogo dei suoi ricordi, è l'estensione della sua memoria, è la tangibile maniera per ricordarsi non solo di aver vissuto, di avere alle spalle, di essere lei l'esito di tante altre esistenze. Alberto Salza, come descriviamo e come leggiamo questa ultima interessante lettura? Questa ultima è veramente interessante perché ha a che vedere con la memoria. Noi abbiamo un'ossessione assoluta per la memoria. Io mi sono trovato in una città sacra dell'Islam, Shinghiti, Mauritania, a vedere disgregarsi sotto la sabbia 5.000 libri antichi, manoscritti preziosi di matematica, filosofia, pre-islamici, islamici. E l'imam non faceva assolutamente nulla, e quando gli chiedi ma facciamo qualcosa, salviamo questi capolavori, lui mi disse: noi amiamo la cultura del rimpianto, noi stiamo perdendo questa capacità di rimpiangere le cose. Ci abbiamo salvato l'ultima cena di Leonardo, che ormai non c'è neanche più una sua pennellata, è tutto restauro. Forse dobbiamo incominciare a non buttare, ma a lasciare che le cose muoiano. Noi abbiamo l'ossessione del non morire, e questo qui altrove non è così, esattamente, perché poi il problema è questo. Sentivo anche nella prima telefonata, buttiamo via tutto, la libertà nostra si limita con la libertà degli altri, e se io butto via, dove va a finire tutto questo? Va a qualcun altro? Nei mercatini, oggi come avrai visto, pullulano in tutte le città i mercatini dell'usato, mai visti in vita mia, tanti mercati delle pulce nelle città. Io li frequento perché mi ci vesto, ovviamente, ma perché il costo ma io ho comprato un trono africano zebrato, che è l'orgoglio della mia casa. Fantastico, però questa circolazione prima o poi, esattamente come i debiti che abbiamo accumulato in questi anni che hanno portato alla crisi finanziaria, prima o poi da qualche parte finiranno. E ultimamente le scorie della società occidentale stanno finendo nei mari dei somali, abbiamo i pirati somali. In qualche modo la nostra scoria deve essere... Alberto, pensa quanto, per quanti anni ancora vedremo le scorie del socialismo reale in quei mercatini dei russi che vendono ancora i ritratti di Lenin, di Stalin, la stella rossa. È la disgregazione, è una lenta dissoluzione di un'ideologia, di un impero, via dicendo, che va per mercatini. Sentiamo Giacinto. Giacinto. Buongiorno. Lei è un raccoglitore, lei è una delle persone che dei nostri ricordi rinnegati fa oggetto del suo lavoro. No, non oggetto del mio lavoro. Per me, ecco, le cose mie, fra l'altro, non vado a comprare cose usate, ma le cose mie sono una specie di coperta di Linus, tanto per intenderci. È come la signora prima, sì, c'ha ragione. Sì, ecco, io purtroppo ho perso l'ultima parte della trasmissione perché mi ha fermato la polizia mentre ero in macchina. Perché stava telefonando? Non so cosa è stato detto, sì. E quindi l'ha fatto anche la multa? No, sono stati clementi. L'ha perdonata, ha detto ascoltava Melog, l'hanno perdonata. Però non si fa. Senta, ma lei è un raccoglitore, che vuol dire un raccoglitore? Cioè, io non, nel senso che non butto via niente, anche perché ogni tanto vado a riguardare queste cose e mi danno un piacere immenso, perché appunto, come la signora, mi ricordano tanti momenti belli, cari, come dire... Abbiamo capito, sono oggetti caricati di una emotività così forte per cui fa parte degli oggetti che Salza definiva del bello. Sono gli oggetti belli che ci vogliamo tenere. Franco, chiudiamo con Franco. Pronto? Lei ha un triste destino. Mia moglie non mi fa leggere, quindi devo tenere sempre da parte dei libri, li tengo in macchina. Legge clandestinamente? Legge clandestinamente? Praticamente sì, purtroppo è una cosa che ho scoperto dopo il matrimonio e quindi mi sono dovuto adeguare. Infatti mi è dispiaciuto che lei vuol buttare tutti i libri che ha nella casa e sento tanta gente si vuol liberare. Io glieli regalo volentieri, ma poi non li può leggere a casa, come fa? Deve affittare un garage per andare a leggere i libri. Ho chiesto infatti a mia nonna la disponibilità di una stanza nella sua casa. Ma non fa prima liberarsi della moglie, scusi se mi permetto, ma se il problema è quello. facendo una valutazione costi-benefici, i costi sarebbero molto più alti, quindi ancora ho capito che non mi conviene. Quindi è un lettore clandestino. Alberto Salza, chiudiamo, abbiamo un minuto. Mi sembra di definire una linea di demarcazione fra gli oggetti da cui è brutto liberarsi perché sono caricati di qualcosa di forte, di importante, e quelli di cui potremmo far veramente a meno. Con la telefonata dell'ultimo lettore io mi ricollego, ero nel deserto del Kalahari a caccia di boscimani e avevo con me... Come a caccia ai boscimani? Cioè, cercavo disperatamente. Ma sì, per studiarli. Sì, certamente. Ma in realtà è un trofeo anche quello. Ma in sostanza avevo Moby Dick, un librone pesante, e buttavo via una pagina man mano che la leggevo, questa volava nell'aria. Io venni trovato dai boscimani perché avevano trovato delle foglie bianche con dei segni neri sopra e mi avevano seguito un po' come pollicino nella foresta. Perfetto, leggere i libri e buttare via man mano le pagine sono lette, perché una volta che non le ha lette appartengono a noi stessi. Se la lettura è stata profonda, è stata interessante. Grazie Alberto Salza, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo la prossima settimana. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.